Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questa giornata di giovedì 10 ottobre. Come ampiamente previsto, ma non per questo meno colpevole e tragico, c'è stata l'invasione della Turchia nel nord della Siria ai danni delle truppe curde, e quindi tutto il mondo internazionalista deve stringersi intorno a questi compagni resistenti della democrazia e della libertà in un territorio dove democrazia e libertà non è neanche lontano parente. Detto questo, noi ascoltiamo Radio Bullet e così apriamo la nostra mattina di Radio Zanardi. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. La Turchia lancia offensiva di terra in Siria, colpita anche una prigione ISIS gestita dai curdi. Arabia Saudita, le donne potranno arruolarsi nell'esercito. Tunisia, fuori di prigione il candidato presidenziale. Germania, Yom Kippur insanguinato. Ecuador, non si placano le proteste. Stati Uniti, alla Johnson & Johnson una multa da 8 miliardi di dollari. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. Well, Turkey has now launched a land offensive, boots on the ground entering northern Syria as airstrikes and shelling continues on. I turchi hanno lanciato un'offensiva transfrontaliera, nome in codice Primavera di Pace, contro i curdi nel nord, mentre continuano i bombardamenti in almeno 4 villaggi siriani in un'area ristretta tra Ras Ain e Tal Abyad. I militari turchi hanno attraversato il confine in 4 punti, dando il via anche all'offensiva, così di terra. Durante la notte la Turchia ha dichiarato di aver colpito finora 181 obiettivi nell'area, tra cui una prigione dove c'erano detenuti dell'ISIS. Non è chiaro cosa ne sia di loro. 2 inglesi dell'ISIS sarebbero stati prelevati dagli americani, responsabili della morte del giornalista e amico Jim Foley. Migliaia le persone in fuga, civili a rischio, avvertono le Nazioni Unite. Il ministro degli esteri turco dice che l'operazione non viola la legge internazionale. Questa operazione viene eseguita in conformità con il diritto internazionale, l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sulla lotta al terrorismo, ha affermato Cavusoglu su Twitter. Ha aggiunto che a seguito dell'operazione la regione sarà liberata dai terroristi, la sicurezza delle frontiere e l'integrità territoriale della Siria saranno garantite, gli sfollati potranno tornare sani e salvi nelle loro case, la pace e la sicurezza prevarranno sulla regione. Fermi gli Stati Uniti, che dicono di non aver dato luce verde all'attacco. Immediate le altre reazioni internazionali. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha chiesto che si fermino subito, la popolazione siriana ha già sofferto abbastanza. Intanto ha chiesto una riunione urgente alle Nazioni Unite. Il presidente russo Putin invita il collega Erdogan a non compromettere gli sforzi fatti finora. Trump, che ritiene pessima la scelta americana di andare in Medio Oriente, twitta che gli Stati Uniti hanno speso 8 mila miliardi di dollari per combattere e fare politica in quella regione. Siamo andati con la scusa della presenza di armi di distruzione di massa e non ce n'era nemmeno una. Ora è il momento di tornare a poco a casa. L'Iran dice di capire le preoccupazioni della Turchia al confine, ma serve moderazione. Poi cancella la visita del portavoce del Parlamento in Turchia. L'Egitto ha chiesto una riunione di emergenza della Lega Araba, condannando con forza l'aggressione, si legge in una dichiarazione del ministro degli esteri, così come ne arrivano dagli Emirati Arabi, Arabia Saudita e Bahrain. E a proposito di Arabia Saudita, le donne potranno entrare nelle forze armate. La decisione è l'ultima di una serie di misure volte ad aumentare i diritti nelle donne nel regno, nonostante la repressione contro le attiviste. Un altro passo verso l'empowerment, ha scritto il ministro degli esteri su Twitter, aggiungendo che le donne sarebbero in grado di servire prima come soldati semplici, caporali o sergenti. L'Iran ha arrestato una celebrità di Instagram, famosa per aver cambiato drasticamente il suo aspetto attraverso la chirurgia estetica, secondo quanto riporta l'agenzia stampa Tasnim. La star dei social media, nota come Sar Tabar, è stata detenuta per crimini culturali e corruzione sociale e morale. La donna, che a molti ricorda Angelina Jolie, dovrà affrontare anche accuse tra cui blasfemia, incitamento alla violenza, guadagno con mezzi inappropriati, incoraggiamento dei giovani alla corruzione. Instagram è l'unico importante servizio di social media accessibile in Iran, a differenza di Facebook e Twitter e dei servizi di messaggistica Telegram, che sono ufficialmente vietati. Iraq, in alcune zone della capitale, in particolare nella zona verde, sono state tolte le restrizioni dopo le violente manifestazioni anticorruzione dell'ultima settimana. Le scuole hanno riaperto, ma sempre solo in alcune zone. Intanto il primo ministro Adel Abdul Mahdi ha annunciato un rimpasto di governo dopo aver dichiarato 3 giorni di lutto e detto che chi ha sparato ai manifestanti, morti sono stati più di 110, sarà punito. Tunisia, il candidato presidenziale in carcere da agosto, Nabil Karoui, è uscito ieri, pochi giorni dal voto del ballottaggio, di cui è uno dei 2 candidati in galera per corruzione e riciclaggio. È stato accolto dai suoi sostenitori fuori dalla prigione e ora dovrà affrontare Kais Saied, un altro indipendente. A heavily armed shooter outfitted in combat gear targeted a synagogue in the German town of Halle Wednesday. Pesantemente armato, ha tentato di farsi strada in una sinagoga. All'interno c'erano circa 70 persone. A Halle, nel giorno più santo dell'ebraismo, lo Yom Kippur, ha ucciso una persona per poi muoversi verso un negozio di kebab e facendo un'altra vittima. Prima di sparare è andato in onda in streaming sulla piattaforma Gain di Amazon Twitch con il suo manifesto. Ma sentiamo Paola Mirenda in collegamento da Lipsia. 27 anni, tedesco, nazista, con l'odio verso gli ebrei, gli immigrati che li aiuta, le femministe che non fanno figli. Dell'uomo che ieri a Halle ha ucciso 2 persone si sanno ancora poche cose, tranne il nome, Stephen Bailet, da Eisleben, Sassonia-Anhalt. Una città nota alle cronache dell'estrema destra per essere sede di una discussa palestra di arti marziali, usata come base da neonazi. Solo pochi giorni fa su questa palestra si è puntata l'attenzione dell'amministrazione cittadina, dopo le diverse denunce arrivate in rete. E sede di neonazi anche Halle, città universitaria, sindaco progressista di una lista civica, che però dal 2017 ospita la più grande sede in tutta la Germania del movimento identitario, un palazzo di 4 piani acquistato grazie all'intermediazione di un esponente di Alternative for Deutschland e che dista solo 850 metri dalla sinagoga di Humboldtstrasse. All'indomani della sparatoria una cosa è evidente, la polizia e l'ufficio per la protezione della Costituzione, i servizi segreti interni, hanno sottovalutato e continuano a sottovalutare il pericolo dell'estrema destra in Germania, che pure dovrebbe essere al centro dell'attenzione. Non si tratta più nemmeno di segnali, come erroneamente e impropriamente li ha definiti ieri la leader della CDU e ministra della difesa Annegrete Kramp-Karrenbauer. Ci sono stati finora decine di episodi in cui è apparso evidente come ci sia un legame stretto tra le stesse forze di sicurezza e gli ambienti neonazi. È il caso della rete di estremisti all'interno dell'esercito tedesco, la stessa rete di cui faceva parte Franco A., l'uomo che si era costruito una falsa identità siriana e che progettava un attentato per far ricadere la colpa sugli immigrati, o della rete di cui fa parte la guardia carceraria fermata dopo il raid nazista del gennaio 2016 a Lipsia e lasciato tranquillamente al suo posto fino a poche settimane fa a garantire una rete di favore agli estremisti di destra in prigione. E poi gli attacchi antisemiti o contro le associazioni di sostegno ai migranti. Infine, l'omicidio del politico della CDU, Walter Lübcke. Secondo lo stesso ufficio per la protezione della Costituzione, ci sono stati nel 2018 19.409 reati legati all'estrema destra, scena che raggruppa un potenziale di 24.000 persone in tutta la Germania. Stai ascoltando Radio Bullets. Stati Uniti, una giuria di Filadelfia ha ordinato alla Johnson & Johnson di pagare 8 miliardi di dollari di danni a un uomo che ha usato il farmaco antipsicotico Risperdal da bambino. Gli ha causato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento del seno. Si tratta della multa più pesante finora imposta alla multinazionale farmaceutica americana nelle oltre 13.000 azioni legali avanzate su Risperdal. Nelle cause Johnson & Johnson è accusata di essere stata consapevole dei rischi, ma di non aver messo adeguatamente in guardia medici e pazienti. Ecuador. I manifestanti hanno occupato il Parlamento nel pieno delle crescenti richieste di dimissioni del presidente Moreno. I manifestanti antigovernativi hanno preso d'assalto l'edificio dopo che 20.000 indigeni sono scesi in piazza contro le misure di austerità imposte dal Fondo Monetario Internazionale. La polizia ha sparato gas lacrimogeni, ma i manifestanti non si sono fermati. Il governo Moreno ha imposto un coprifuoco che sarà in vigore dalle 20 alle 5 del mattino intorno alle principali installazioni statali, di edifici governativi, nonché gli aeroporti e le raffinerie di petrolio. Messico, 11 persone sono state arrestate nel sud dopo che il sindaco del loro villaggio è stato trascinato fuori dall'edificio, picchiato e quindi legato a un camioncino e trascinato per le strade della città. L'ufficio del procuratore generale di Tuxtla Gutiérrez ha dichiarato in un comunicato stampa che l'incidente è avvenuto martedì scorso nella città di Las Margaritas, quando un gruppo di persone ha preso d'assalto l'ufficio del sindaco Jorge Luis Escadón Hernández e causato danni agli immobili, oltre averlo aggredito. Il gruppo arrabbiato di agricoltori stava chiedendo al sindaco di costruire una strada che aveva promesso di fare durante la sua campagna elettorale, secondo quanto riportato da Excelsior. Cina, Apple nel mirino a causa della app AK Map Live disponibile a Hong Kong, che traccia l'attività della polizia nel mezzo delle proteste pro democrazia che da 4 mesi stanno scuotendo la città. Contro la casa di Cupertino si è mobilitato il quotidiano del popolo, la voce del Partito Comunista Cinese. L'approvazione di Apple all'app ovviamente aiuta i ribelli, si legge in un commento. Questo significa che intendeva essere complice dei rivoltosi? Apple subirebbe conseguenze per questa decisione imprudente e sconsiderata. Afghanistan, dopo un'indagine durata 4 mesi, le Nazioni Unite hanno diffuso un rapporto sul bombardamento americano del 5 maggio scorso contro un laboratorio per la droga nell'Afghanistan occidentale. Il rapporto ha scoperto che l'attacco viola la legge umanitaria internazionale, con 34 civili morti, tra cui 14 minori. Per il Pentagono, le vittime erano insordi. Russia, il fondo anticorruzione di Navalny, oppositore di Putin, è stato inserito nella lista nera delle organizzazioni bollate in Russia come agenti stranieri, lo riportano i media russi. Il Ministero della Giustizia, che ha la competenza, non ha spiegato il perché di questa decisione. Non abbiamo ricevuto dall'estero nemmeno un copeco e chiediamo al Ministero di motivare questa decisione, ha tuonato su Twitter Navalny. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento di ascolto e naturalmente di giornata. We'll be right back.

bailas colombina, dancing rock and roll. Come, faccio a dirti vuoi ballar con me. Se non riesco a dirti voglio star con te. Ma come faccio a dirti che ti amo già. Se non riesco a dirti vuoi ballar con me. Amami, baciami amore, ti amo, voglio ballare con te. Amami, baciami, ti amo, se te I love you. rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Trenta minuti di questo 10 ottobre, giovedì, giornali che alcuni dei giornali si concentrano sulle grandi crisi internazionali, quella che colpisce il Kurdistan e quella che ha colpito la comunità tedesca. Ma dicevo alcuni giornali perché per lo più altri giornali preferiscono stare alla vecchia regola che il lettore è più interessato allo scoppio del tombino sotto casa sua che allo scoppio della bomba atomica di Hiroshima, e quindi si mettono i primi titoli notizie delle bagatelle più o meno serie o più o meno inventate sull'Italia. In realtà alcuni fogli, dicevo, invece correttamente esplicitano il loro dovere di giornalismo, come il Corriere della Sera che apre con Siria la guerra di Erdogan, via l'invasione contro i curdi, Trump dice una cattiva idea. Ma questo Trump è, se non il tradimento di Trump è patetico se non tragico, perché ha fatto un passo indietro affinché potessero passare le colonne armate turche nella invasione che è già in corso, perché di fatto i bombardamenti fino a prova contraria sono invasioni dei cieli altrui, e quindi è un'operazione, è il primo passo di quello che Erdogan chiama missione di pace. È bello che anche il più feroce e belligerante non rinuncia al vezzo di definirsi pacifista. Comunque, la Turchia lancia l'attacco, raid aereo, offensiva di terra nel nord-est. Le ONG, uniche testimoni in questi casi a minimo di credibilità, parlano di almeno 15 morti, dice il Corriere della Sera. Anche l'Avvenire parla di fuoco sui curdi, mentre il Manifesto parla di terrore turco. Siamo sempre i primi titoli. È partito l'attacco militare di Erdogan ai curdi della Siria, raid aerei, tiri di artiglieria sulle città di frontiera. Le prime vittime sono civili, ma immagino che anche le seconde, le terze, fino all'ultima. Dopo la ritirata di Trump, la benedizione della NATO, l'operazione Spring Peace. E qui notiamo l'Unione Europea che vergogna, perché mentre ribadisce la sua alleanza alla NATO, dice no, la cooperazione turca non si fa, quando la Turchia è un pilastro della NATO in regione. Abbiamo cauta Mosca, anche perché non ci vuole molto a rendersi conto che al di là della sacrosanta battaglia dei curdi del PKK, qui c'è davvero benzina, una Santa Barbara che già sta saltando, vedi, nello Yemen, e rischia di allargare il suo fuoco bellico anche da Teheran il presidente Assad, anche perché la Siria è pronta a entrare in campo per difendere il suo territorio nazionale. Sabato 12 mobilitazioni internazionali contro la guerra, e dice l'appello del Manifesto, tutti in piazza contro la guerra di Erdogan, è un appello che noi replichiamo e facciamo nostro. Mentre le bombe turche sui curdi di PG, che è l'esercito di liberazione curdo, che ricordiamo essere multietnico, multireligioso, democratico, che è di pari diritti tra uomini e donne, insomma un esempio in quella zona disastrata, quanto mai più anomalo e positivo, ma un esempio anche per l'Occidente, tra l'altro uccisi anche i civili. L'operazione si chiama Fontana di Pace, è una fontana di pace però che gronda sangue, guarda caso. Comunque terrore turco, secondo il Manifesto, la NATO benedice l'offensiva di Erdogan contro i curdi in Siria. Però devo dire che c'è Trump che ha dei problemi in patria, perché c'è anche a parte dei democratici, anche dei repubblicani, dei pentecostali, dicono non si lasciano massacrare dei cristiani, perché questa è l'impostazione antislamica di questa gente, e che Trump può fare, com'è, deve starci attento, perché non mancano tantissimi senatori per aprire la causa dell'impeachment, quindi bisogna che si guardi anche dal cosiddetto fuoco amico. Ma poi c'è l'altro tema, uno dei tanti temi di questa guerra assurda, uno dei temi che mette le popolazioni civili che vengono massacrate, quelle che scapperanno e diventeranno migranti senza arte né parte, che busseranno ai nostri confini e che noi respingeremo puntualmente. E poi l'altro tema, che l'IPG curdo era quello che più si era impegnato a battere l'orrore degli orrori, la falange dell'ISIS. A questo punto si sguarnisce il fronte sud di questa battaglia, e l'ISIS può rialzare la testa. E se rialza la testa l'ISIS, cadono delle altre teste, quelle dei poveri innocenti, delle donne e tutti gli altri. Che fine faranno i foreign fighters? Così l'ISIS adesso proverà a rilanciarsi. E Guido Olimpio, che nella complicatissima mappa di una Siria smembrata da 1000 eserciti che combattono da tempo il suo territorio, vede anche appunto il poter rialzare la testa dell'ISIS da Fallujah, da Dar el Fudur, luoghi famosi. La comandante de Kurda, resisteremo e siamo pronti a chiedere aiuto da Assad. Nessuno si fidi più di Trump, ma Trump ormai ha stracciato i rapporti del protocollo di Kyoto, ha stracciato ogni accordo con l'Iran, straccia gli accordi con i curdi. Poi dopo dice può mettere i dazi perché il WTO gli dà ragione. Questo è il paradosso di chi dice io ho ragione anche quando torto. Ma e poi i torti sono tanti, perché l'Italia è vero che si schiera adesso contro la guerra eccetera eccetera, però c'è la rete del disarmo, ci ricorda che la passione italiana di armare Ankara, non solo l'Arabia Saudita che sta bombardando lo Yemen, ma anche Ankara, perché business is business e il petrolio e l'olio e il denaro non puzza anche se gronda sangue. Perché la rete di disarmo dice la passione italiana di armare Ankara, come leggo da Michele Rubartone del Fatto Quotidiano? Perché nel 2018, quindi non nel 1860, nel 2018 concesse 360 milioni di licenze di esportazione verso la Turchia. Sì, buongiorno a tutti e a tutti da Andrea. La mia opinione è che per aver tentato un'operazione commerciale Trump, per cercare di vendere i suoi F-34 alla Turchia e per imbonire il proprio elettorato illudendo che le truppe americane si sarebbero ritirate da quei territori, ha ingolosito Erdogan a quello che è il suo obiettivo di sempre, ovvero annientare il popolo turco. Ma continuiamo l'esplorazione dei giornali. La Repubblica anch'essa ha un articolo di spalla con un reportage di Marco Ansaldo da Ceylan Pinar, che è la frontiera turco-siriana, e comincia così: blindati con la mezzaluna e la stella rombano oltre confine, puntano l'obiettivo, il deserto davanti si spalanca, le bocche degli obici si aprono di continuo per fare fuoco, i caccia solcano il cielo di una giornata insolitamente chiara e dall'alto spargono grappoli di bombe, ovunque fumo, caos e offensiva dalla Turchia alla Siria. Ma la cosa che volevo segnalare è un articolo di fondo di Michele Serra, il quale si chiede come fare per aiutare i turchi. E la macca di Michele Serra inizia così: i turchi sono entrati in Siria e hanno già iniziato a bombardare i curdi, i quali ce l'avevano fatta contro l'ISIS, difficile che riescano a resistere a un esercito tra i più agguerriti del pianeta. Da cittadino europeo mi domando, senza farmi troppa illusione, se l'istituzione potenzialmente più forte del mondo per economia e per influenza politica, sto parlando dell'Unione Europea, possa fare qualcosa di concreto a tutela dei curdi che tanto hanno dato per resistere all'ISIS. E per concreto intendo ovviamente qualcosa che pesi più delle parole di circostanza e che supplisca alla vergognosa fuga di Trump. E c'è da dare una risposta concreta a queste affermazioni di Michele Serra, perché bisogna ricordare gli internazionalisti che sono arrivati da tutto il mondo per affiancarsi al popolo curdo dei Rovani, popolo senza patria, suddivisa in 3-4 nazioni diverse, e c'è da ricordare anche il nostro conterraneo toscano Orsetti, caduto combattendo le milizie dell'ISIS, ma c'è da ricordare anche altri come Zero Calcare, che si sono recati in quel territorio e hanno scritto cose bellissime anche solo a livello di graphic novel, dove hanno parlato appunto di quell'esperienza e di quel momento. E continuiamo con altri giornali come La Stampa, e anche La Stampa apre in prima pagina con la notizia della Siria: panico tra i civili in fuga, l'incubo di uno scenario libico, raid con gli F-16 sulle città di confine, morti e feriti, Trump al presidente turco, una cattiva idea, però di fatto non è estremamente contrario a questa incursione incredibile di morte da parte di Erdogan. L'ultima testata che riporta anch'essa questa cosa è quella del Carlino: vittime tra i civili, come stupirsi del resto, il mondo condanna ma nessuno reagisce. Riprende le cose all'interno a pagina 4 e 5, Mario Arpino ci fa sapere che l'Occidente è distratto mentre Erdogan attacca il popolo curdo. Raid aereo, operazione via terra dalla Turchia. I repubblicani USA accusano Trump intanto. E dai nazisti che siedono a Istanbul o alla Casa Bianca, andiamo invece all'altro, al nazista da strada, con questa tragedia che ha colpito la Germania. Ma per fare il tridunion tra un nazista e quell'altro, torniamo per un attimo ancora alla Turchia, perché abbiamo un servizio che ci pone la nostra redazione, perché è intervistato su questa vicenda di questo con due principali obiettivi che secondo la redazione la sua intervista si è dato Erdogan: colpire i curdi, usare i prigionieri dell'ISIS come ricatto verso l'Europa, molto evidente. A sostenerlo è un attivista della HDP, il Partito Democratico dei Popoli, e la sinistra turca. Sentiamo allora le sue parole. Dopo la rivoluzione del Rojava, dal 2015 la dittatura di Erdogan si è scagliata apertamente contro le conquiste curde e il movimento di liberazione curdo. In Rojava i curdi stavano mettendo in pratica esattamente le idee del movimento di liberazione, le idee di Öcalan e del PKK. L'operazione militare è esattamente contro queste conquiste e questa rivoluzione nel nord della Siria. Gli obiettivi saranno prima di tutto i curdi, anche se sappiamo che in questa area ci sono anche intorno ai 1000 prigionieri dell'ISIS, i vecchi combattenti dell'ISIS. Dopo l'operazione militare, se Erdogan e le forze turche dovessero vincere la guerra, rimarrebbe una questione aperta quello che faranno di questi prigionieri. Vedremo se vincono. Ma se gli Stati Uniti faranno qualcosa nel nord della Siria, probabilmente salirà la tensione. Non voglio dire che una parte vincerà e una parte perderà. Probabilmente perderemo tutti. I risultati li vedremo, ma l'obiettivo saranno il popolo curdo e i prigionieri dell'ISIS. Ho detto molto su questo tema, ma onestamente non pensiamo che i prigionieri dell'ISIS siano così importanti per Erdogan. Li userà come un campo di rifugiati. Per Erdogan è un gioco, una minaccia contro l'Europa. Di fronte alla notizia, YPG e YPG hanno lanciato un appello. Che cosa chiedono? Sì, l'YPG ha lanciato un appello internazionale e non so se sarà efficace. Probabilmente avete visto che ieri l'ONU ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice preoccupata per la situazione, ma ha parlato a tutte le parti in conflitto, non ha detto alla Turchia di fermarsi. Questo è un comportamento tipico dell'ONU. L'appello internazionale forse non fermerà la guerra, ma potrebbe essere efficace. Speriamo che sia efficace. Per prima cosa il popolo americano dovrebbe dire no a Trump. Sappiamo che alcuni dei politici statunitensi hanno già detto che non vogliono questa guerra, ma quanto conterà in questo momento, sinceramente non lo so. Quando le persone dicono di essere contro la guerra è una cosa importante. Tutte le persone del mondo dovrebbero schierarsi contro questa guerra, perché, mi dispiace molto dirlo, ma può diventare un genocidio, dal momento che se il conflitto inizia nel nord della Siria, e lo abbiamo visto in tempi recenti, continuerà anche nel Kurdistan turco. Nell'est della Turchia il conflitto si intensificherà nuovamente e molte persone moriranno. Esiste un'opposizione interna ai piani di Erdogan in Turchia? Che forza ha? Sicuramente in Turchia ci sarà un'opposizione interna contro questa guerra e contro Erdogan. Come sapete, nelle ultime elezioni amministrative Erdogan e il suo partito hanno perso il controllo di molte grandi città e adesso in Turchia possiamo sentire che qualcosa è cambiato e il popolo curdo può ottenere un trattamento più equo. Molti turchi sono a favore di ciò. Tuttavia in questa situazione il razzismo turco contro i curdi non è debole, possiamo dire che è ancora forte. Quindi, se inizierà la guerra in Rojava, non so se tutti i partiti politici si uniranno contro Erdogan e la KP per dire non fate questa guerra. Non lo so, ma voglio dire una cosa personale. Se mi avessi fatto questa domanda 5 anni fa, la mia risposta sarebbe stata totalmente differente. Come, sì, il popolo curdo può vincere la guerra, o vedremo cadere il governo turco, o qualcosa del genere. Ma dopo la guerra, dopo aver perso così tante persone, dopo aver perso così tanti amici, dopo aver visto i bombardamenti e dopo aver iniziato a vivere con 4 milioni di rifugiati, avendone conosciuto qualcuno personalmente, sai che la guerra è qualcosa che non dovrebbe mai accadere. Cercheremo di fermarla, non so come, ma sarà terribile se continuerà. Spero vivamente che non cominci e per questo motivo cercheremo di organizzare qualche forma di opposizione interna. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E invece chi la guerra cerca continuamente di costruirla nei palazzi ma anche per le strade, dicevamo. Veniamo alla tragedia della Germania. Voleva una strage di ebrei in sinagoga, Germania in lutto il giorno dello shock. Un estremista di destra, ma sì, perché non li chiamiamo nazisti? Assalta il tempio di Al, vicino a Lipsia, poi uccide due persone, preso dopo la fuga. E chiaramente si è ispirato all'altro nazista, anzi estremista di destra, che ha colpito la Nuova Zelanda, perché ha avuto la stessa idea di mettere in diretta canale online la sua strage. La telecamera GoPro sull'elmetto, come in un gioco, spara tutti 35 minuti del massacro in diretta per non perdere nemmeno un secondo. Si autodefinisce un anonimo della rete, il killer della sinagoga di Ale, usa la tecnologia per diffondere odio, perché evidentemente questo è il dato, dicono i giornali. È ancora il Corriere, da cui sto leggendo questa volta con Marco Imarisio. Ha agito da solo, la diretta della strage è un manifesto delirante, ma non è un cane sciolto, quindi è sicuramente un matto, ma non è un matto isolato. Quando i matti cominciano a essere tanti e si organizzano in internazionale nera, a questo punto diventa un problema politico, non solo un problema psichiatrico. Ma non è un caso sciolto nell'insostenibile est dove ribolle il nazista. Ricordiamo che il partito di destra nelle ultime elezioni ha avuto il 10% in queste zone. E poi c'è l'equipaggiamento descritto dal Corriere, che è un equipaggiamento proprio da guerra, fino in fondo da guerra, con tasche con granate, pantaloni stivaletti di foggia militare, c'è anche il mito della guerra, fucile a pompa, fazzoletto bianco con simboli di estrema destra, telecamera con cui filmava l'azione e il metodo di tipo militare. Questo signore sparava con calma e determinazione sulla gente. Gli ebrei, ha detto nel suo video, radici tutti i problemi nel video del killer, l'odio razziale. Prima i tedeschi. Mi sembra che questo slogan qualcuno lo faccia anche in Italia. Gli inquirenti hanno avviato ricerche nella regione dell'ex DDR, dove l'estrema destra sfrutta la paura per gli immigrati, l'islamofobia e l'antisemitismo. L'attacco di Halle, città appunto della Germania dell'Est, emulo dell'assassino della moschea di Christchurch in Nuova Zelanda, Stefan Ballier, il neonazista sassone 27enne, assalito alla sinagoga in diretta streaming con due morti. C'è anche il Fatto Quotidiano. Allora, la incubo nazi, dice il giornale, così la Germania ha rimosso il suo passato. Il 77% dei tedeschi vuole dimenticare la Shoah. Credo che purtroppo questa è una malattia che dell'oblio della memoria e della cattiva coscienza che attanaglia tutti i popoli. Basti pensare agli italiani sulle imprese africane, ma questo non lo so, bene gli italiani nei tedeschi che vogliono dimenticare. Intanto sono risorti i suprematisti bianchi ed estremisti islamici. E dice il giornale che deve comunque dar colpo una al botte e una al cerchio. Perché se intanto fosse trovato da un islamico, non citava gli nazisti. In questo caso esisterebbero in ballo anche gli islamici, ma lasciamo perdere questa logica di fare propaganda sui giornali. La denuncia: nel paese c'è un pericolo sfrenato di odio antiebraico, numeri da paura, i numeri di attentati sono, quest'anno è salita a quota 400. Sì, ancora su questa notizia, grazie Alfredo, lo prendiamo dalla Stampa, pagina 3, il quale giornale parla appunto del neonazista negazionista Stefan, che odia anche donne e immigrati. E c'è un articolo di Mauro Mondello che sottolinea e disegna il profilo appunto dell'attentatore, e c'è una cartina dove si spiega quali sono state le tappe tra cimitero ebraico, sinagoga, quartiere Paulus e ristorante kebab turco, e una crono mappa appunto delle varie vicende che si sono succedute: l'assalto alla sinagoga, dopo aver piazzato diversi ordigni davanti alla sinagoga, cerca di entrare nel tempio gremito dai fedeli per lo Yom Kippur, non ci riesce, ma una donna resta ucciso, poi si reca al ristorante turco, il killer tenta poi l'assalto a un fast food uccidendo una persona, durante tutto l'attacco posta un video in diretta. E c'è una approfondimento, scusate, su cos'è lo Yom Kippur, per la religione ebraica è la più sacra e solenne delle ricorrenze religiose ebraiche. Comincia col crepuscolo del decimo giorno del mese ebraico di Tishri, tra settembre e ottobre, e continua fino alle prime stelle della notte successiva. È un giorno di digiuno totale dedicato alla preghiera e alla penitenza, e vuole che l'ebreo consapevole dei propri peccati, poiché è il giorno in cui, secondo la tradizione, il Dio suggella il suo giudizio verso il singolo. Il tema centrale del Yom Kippur, che completa il periodo di penitenza di 10 giorni iniziato nel capodanno di Rosh Hashanah, appunto una conclusione del capodanno ebraico. Ancora notizie in prima pagina su Repubblica. Stefan, 27 anni, voleva una strage e non è riuscito a entrare in sinagoga, ha sparato per strada. L'assalto è trasmesso anche in diretta Facebook. E ancora sempre su questo argomento anche il Carlino riempie quasi tutta la prima pagina. Due vittime fra i civili e fa appunto il paio con la notizia della strage che si sta perpetrando nell'ambito del popolo curdo. Sì, non riuscendo ad entrare nella sinagoga, ha pensato bene di sparare contro un negozio di kebab, perché se non sono ebrei sono islamici. A questo punto, un po' come Kennedy a Berlino al tempo del muro, ci viene a dire: siamo tutti ebrei, siamo tutti islamici, siamo tutti curdi, siamo tutti palestinesi. Musica klezmer dell'Europa orientale, che fu la tragica colonna sonora tra un pogrom e l'altro e fino alla Shoah nazista. Ma veniamo invece alle altre notizie degli esteri, tornando appunto al nazista Trump. Impeachment: Trump alza il muro, il presidente e il suo esecutivo non coopereranno con il congresso. Biden si schiera, per essere più corretti, Biden si spiega per l'incriminazione. Crisi costituzionale dunque, lo scontro tra Casa Bianca e Campidoglio potrebbe finire davanti alla Corte Suprema, quello che Trump ha cambiato a suo favore. Questo è come si cambia in modo legale una costituzione. Vengo a un altro personaggio che sicuramente non sfigura di fianco a Trump o a Putin o a Erdogan. Parliamo di Boris Johnson del Regno Unito. Il ministro della Brexit: l'accordo, il tempo c'è, garantiremo i diritti degli italiani del Regno. Berkeley a Roma a rassicurare per quanto è possibile Steve Berkeley, della compagine di Johnson, sulla hard Brexit. Con il vostro paese rapporti ottimi. Permessi di soggiorno: gli stranieri, dico, registratevi presto. Una domanda su 2 milioni è stata respinta. Ma questo è appunto le rassicurazioni che io non credo non tranquillizzano neanche più di tanto i tantissimi italiani che da tempo ormai lavorano nel Regno Unito e li portano ricchezza, perché ancora una volta sono considerati migrati, e quindi cittadini di serie B, ognuno trova sempre qualcuno più a sud di sé e scopre di avere qualcuno più a nord. Ma vengo invece all'Ecuador, che vive una tragedia, una rottura sociale non da poco. Ha spostato anche la stessa capitale il leader indigeno Moreno, adesso contestato dallo stesso popolo. Ecuador: Moreno usa il pugno duro contro la rivolta, 3 sono i morti. Per i manifestanti le vittime potrebbe essere di più, almeno 100 i feriti e 600 gli arrestati. ma il popolo, il movimento non demorde, la mobilitazione proseguirà finché il governo non farà marcia indietro sul pacchettato, questo pacchetto di manovre, di misure sociali davvero terribili, che abbassi i salari, taglia le pensioni, perché anche qui, da quando c'è la ricetta Trump in America Latina, c'è una disgrazia economica dietro l'altro, non solo in Venezuela, non solo l'Ecuador, ma anche il Brasile, l'Argentina, insomma, l'America Latina torna a essere un tragico cortile di casa. Sì, ancora notizie dall'estero. Dopo questa molto tragica dell'Ecuador, ci viene dal Pakistan, e c'è il medico che aiutò a catturare Bin Laden, e invece è in carcere, che chiede aiuto per essere liberato. Poteva essere un eroe con cittadinanza onoraria e medaglia d'oro al congresso americano, ma il dottor Shaquille Afridi, il medico pakistano che nel 2011 aiutò la CIA a rintracciare abbandonati il fondatore di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, da allora sta scontando in una località segreta una dura carcerazione, torturato e ridotto secondo i parenti a uno scheletro ieri a una corte d'appello di Peshawar. Ha avviato e subito rinviato di 2 settimane l'udienza chiesta dai legali per contestare le accuse che gli costano una condanna di 33 anni emessa nel 2012 per il suo presunto sostegno a gruppi terroristici, incriminazione per la morte di un ex paziente. Ancora dall'America, alla Obama, primo sindaco nero nella città simbolo del razzismo. Steven Reed, 45 anni, festeggia appunto la sua elezione a sindaco di Montgomery, primo nero dopo 200 anni. E c'è ancora, sempre dalle pagine di Repubblica dedicate al mondo, un altro articolo che riguarda anche le Nazioni Unite, e c'è l'allarme di Gutierrez: 64 dei 193 paesi membri non hanno pagato i contributi, e l'ONU è a rischio per i suoi dipendenti inadempimenti. 63 paesi, appunto, gli USA devono versare 674 milioni di dollari, oltre 300 di arretrati. Ancora dall'estero, c'è la questione dell'impeachment alla Casa Bianca contro la Camera, l'inchiesta dell'impeachment del presidente Trump legata al caso Ucraina si è trasformata in una crisi costituzionale. La Casa Bianca ha infatti dichiarato guerra alla Camera, dicendo che non parteciperà in alcun modo al procedimento. La speaker Nancy Pelosi ha risposto che questa linea verrà considerata come una prova di reato e di ostruzione alla giustizia. Vabbè, andiamo bene. E ce n'è ancora una che ci porta a sforare nel prossimo argomento di questa rassegna stampa, che è l'ambiente, che viene appunto dal Canton Vallese, dove hanno creato una centrale solare galleggiante appunto dentro al bacino idrico di Lac des Tules. Sì, dell'ambiente parleremo per il momento, però rimaniamo al governo, perché è stato presentato al Senato il DEF, documento economico finanziario, che in qualche modo è l'antefatto della manovra. E allora, anche ancora una volta, abbiamo illazioni, falsità, cose vere, cose verosimili, lancio di stampa, insomma, il blob non si ferma. Per esempio il giornale, tasse per cena, ogni giorno il giornale si inventa una tassa diversa. Stangata sui ristoranti, servono 5 miliardi ipotesi aumento IVA ai locali, tanto per creare terrore negli albergatori, anche se il ministro Franceschini l'ha smentita, ma non vogliamo stare con la smentita, ma insomma dovremmo stare con le cose che vengono scritte, visto che già c'è un primo documento, anche se ancora generico. Poi si è detto, i ticket pagheranno i ceti medi. Misiani, vice ministro dell'economia, i ticket sulla sanità cambieranno ma senza colpire i ceti medi. Qui si gioca l'elastico, cosa si considera ceti medi. Se il professionista da 100.000 euro all'anno di utile è un ceto medio, ma sembra un ceto medio alto o molto alto. Il vice ministro dell'economia, l'assegno unico per i figli, prima rivedremo i bonus. Mentre Gualtieri dice, lotta all'evasione è sempre dal Corriere. Incassi veri, ma incasso no, invece uscite verissime, almeno secondo la notizia, giornale online di Sponda 5 Stelle. Guerini, ministro della difesa, scusate, prenota altri caccia F-35, perché non sono mai abbastanza gli F-35. Restano ad opporsi solo i 5 Stelle, ma una strana, ben strana opposizione alla 5 Stelle, che dicono strepitano, poi dopo sono i primi attori di questa operazione. Comunque andiamo invece ad altri spunti, e siamo al tema di ieri, dove con un voto a mio parere improvvido si è tagliata la democrazia del nostro paese, tagliando i parlamentari e ridiminuendo la rappresentanza democratica di questo paese, senza diminuire peraltro gli stipendi di quelli che rimangono, cioè i capi bastoni, i capi segreteria, quelli che decidono di non lasciare neanche una lontana possibilità agli outsider di entrare in Parlamento e rinnovare i partiti. Ma questo è il tripudio dei 5 Stelle, anche del Fatto Quotidiano. Legge elettorale, partenza in salita. Nel PD si fronteggiano due ricette, ma buona parte dei Dem è per un sistema maggioritario. Hanno detto: prima facciamo il taglio parlamentare, poi dopo un secondo tempo, comune cambiale in bianco, faremo i contrappesi. Ora si parla di contrappesi, sono tutti in discordi l'un con l'altro. Quindi Orlando, ognuno c'ha la sua soluzione, anche questo abbiamo già visto ormai da più di un decennio, dagli anni 90, quando si parlò del maggioritario, fin da Mariotto Segni, per chi c'ha l'età per ricordarselo. L'intervista va a Orlando del Dem: no al proporzionale puro, il modello giusto è quello spagnolo. E ritorniamo al modello spagnolo, il modello tedesco, il modello finnico carpiato, c'è tutto di quello. Fraccaro, 5 Stelle, il taglio degli eletti, altro che antipolitica, adesso un patto per i cittadini, anche il PD ci segua. Il referendum certo non lo chiediamo noi, dice Fraccaro, bene Di Maio, non ci saranno scissioni dentro i 5 Stelle. E questo è quello che leggo dal Corriere. E allora su questo referendum il Manifesto parla della tentazione di un ultimo voto cosiddetto extra large, perché ci sono diverse possibilità di referendum: 500.000 firme tra i cittadini, tante totte di regioni che firmano il referendum, oppure tante firme raccolte tra i parlamentari. Allora più probabile sembra l'ultima, perché Forza Italia è vicina a raccogliere le firme necessarie in Parlamento, e dopodiché si andrebbe a un referendum. Anche, e commenta così Fabozzi dal Manifesto, anche i senatori proponenti sanno che è assai improbabile che nelle urne referendarie no al taglio dei parlamentari possano battere sì. Ma a questo punto quello che conta sono i tempi del referendum. I 3 mesi di intervallo dovranno trascorrere tutti, anche se 64 firme di senatori, o assai meno probabili 126 deputati, dovessero essere raccolte prima. Per prassi si attende che scadano i termini anche per l'eventuale raccolta di firme dei cittadini. Arriveremo così al 15 gennaio. A quel punto la legge revisione costituzionale potrebbe essere promulgata in assenza di richiesta di referendum. Le prossime elezioni politiche si presenterebbero con nuovi numeri ridotti, 400 deputati e 200 senatori, e il governo avrebbe 2 mesi di tempo per disegnare i collegi. Insomma, tutto questo senso dello Stato, diciamo così, si riassume in un calcolo di convenienza personale legato al calendario parlamentare. Ai ai ai, di mio Dio, come sono caduta in basso, diceva una volta l'attrice. Ma poi c'è il tema delle autonomie. Libero spara la sua cannonata di questa mattina: Lombardia e Veneto bidonati, quindi sembra questa persecuzione di questi poverelli, di imprenditori lombardi che sono venuti con le pezze al culo. Le due regioni che hanno votato il plebiscito ora si trovano di fronte all'ostilità di 5 Stelle e PD. In pratica la riforma del Nord è destinata a rimanere lettera morta, una truffa, tuona Libero. Anche Bonaccini è preoccupato a casa nostra. Autonomia, non si azzeri tutto. Il governatore Bonaccini è preoccupato della scelta di Roma per di fare un'unica legge nazionale. Bene che decida il Parlamento, ma non si può aspettare un anno per i livelli di essenziali delle prestazioni. Questa quindi è la versione di centro-sinistra della scissione dell'Italia. Ma ancora nella serie Bonaccini, abbiamo Bonaccini che posta una sua immagine mentre fa palestra, e chi se ne frega, però adesso questa è la politica, però soprattutto anche dei bicipiti dei nostri governatori, un po' come no, il soldato Jane, e la Lega dice: ah, adesso voglio vedere come la mette con i disabili. Quindi siamo completamente alla demenzialità pura. Sì, io vedendo quella foto ho rivalutato questo personaggio, nel senso che io pensavo fosse grasso, invece in realtà è grasso e grosso. Questo... Che cambia il giudizio politico? Cambia. Ma ritorniamo dopo questa battuta al governo italiano e ai partiti, e riprendiamo l'argomento sforbiciata ai parlamentari, e dalle pagine della Stampa apprendiamo da un articolo di Nicola Corda, che si scatena la rivolta dei piccoli comuni. I politici locali, dalla Lombardia alla Campania, sono pronti, appunto, come diceva Alfredo, a una raccolta di firme per il referendum. E secondo Nicola Corda, chi è penalizzato? I calcoli riguardano ai collegi invariati, che portano sforbiciate ben più consistenti, con regioni, specialmente quello che riguarda il Senato, che vengono colpite pesantemente, come per esempio alla Basilicata, che perde 4 seggi su 7, il Friuli Venezia Giulia con 3 senatori in meno su 4 e la Calabria quasi dimezzata, passando da 10 a 6. E c'è un'intervista a Marco Bussone, che è il presidente dell'Unione delle Comunità Montane, che dice: meno rappresentanza, anche così si favorisce lo spopolamento dei piccoli paesi, delle comunità dell'interno, che già si stanno spopolando per un effetto endemico. Ma volevo segnalare il taccuino, cioè l'articolo di sempre sulla Stampa di Marcello Sorgi, che ci parla di proporzionale e ci parla di rischio di partitocrazia senza partiti. Al di là delle polemiche in parte mediocri che hanno accompagnato il taglio del numero dei parlamentari, è un risultato importante perseguito inutilmente per 36 anni da governi e parlamentari, ed è anche il primo tentativo concreto di venire incontro a un'opinione pubblica che da un quarto di secolo, almeno dalla caduta della Prima Repubblica, attende segni di resipiscenza e tentativi di rilegittimazione da parte della politica. È davvero un peccato che il voto di lunedì non possa rappresentare un nuovo inizio di quella lunga stagione della grande riforma, troppe volte abortita in questi anni. Alla svolta della riduzione di deputati e senatori, infatti, non seguirà nessuna iniziativa che affronti i veri problemi del sistema italiano. Dopo la bocciatura del referendum del 2016, niente sulla governabilità, cioè sul diritto degli esecutivi di vedersi approvare a respingere i provvedimenti senza affrontare l'ostruzionismo delle Camere. E conclude questo articolo appunto parlando del peso della democrazia rappresentativa, il vincolo di mandato per punire chi si ribella al partito che lo ha eletto, e il referendum propositivo per consentire al popolo di farsi direttamente le leggi, e sullo sfondo il ritorno del proporzionale per impedire ai cittadini di scegliersi i governi e lasciare libera in questo campo una partitocrazia senza partiti, appunto, come ci diceva il titolo. Nel frattempo, tra 9 giorni ci avremo il centrodestra in piazza, unito ma non troppo, secondo il giorale. Il centrodestra litiga sulla piazza, 8 regioni a rischio. La scorsa settimana, dice Alberto Signore, dall'ottica di Forza Italia, Giorgia Meloni ci ha provato più di una volta, ma Matteo Salvini ha preferito svicolare e telefonare, ha telefonato i messaggi, deciso di organizzare la manifestazione del 19 ottobre in Piazza San Giovanni a Roma in perfetta solitudine. Non c'era dovunque nessuna condivisione o pianificazione comune, come avrebbe potuto essere e come avrebbe voluto la leader di Fratelli d'Italia. Ma anche perché servono almeno 60-70 mila persone reali, altrimenti è stato il suo avvertimento, si rischia di dare l'impressione di una piazza mezza vuota. Invece l'ex ministro dell'interno ha scelto di gestire in solitario l'evento in tutti i suoi aspetti, e questo è quanto. Nel frattempo, sulla gestione in solitario interviene anche il Fatto Quotidiano, nelle note, nelle cronache così di costume, che ci porta a un Salvini e il suo il talk show sono gli steroidi di Salvini, perché anche lui va in palestra, ma una palestra drogata. Vita catodica in TV. A di martedì performance cardiovascolare. Si direbbe che la vecchia tattica funzioni ancora, il turpiloquio lo galvanizza. Questa è la base culturale di Salvini. Nel frattempo, su Salvini abbiamo la Lega che si piglia il COPASIR, con la commissione parlamentare sui 007. Con Volpi, indagine sul Russia Gate, Conte pronto a riferire. Naturalmente, avere un leghista a capo del COPASIR si potrà mettere in croce sulla vicenda dei 007 americani. L'ipotesi di cedere la delega a Vecchione per un avvicendamento nei servizi segreti. Ma soprattutto più ancora che le vicende di Conte, che speriamo chiarisca, comunque sono cose sue, c'è il personaggio descritto da Marco Galluzio che è la persona meno indicata ad andare al controllo sui servizi segreti, perché sembra che il leghista di ferro vicino alle forze armate, quindi proprio uno che è complice, magari dovesse, ma uno estremamente estraneo alle forze armate, per dare invece nomi a uno che è legato alle forze armate, l'ironia sui social per attaccare il premier. Beh, questo è il quasi. Il PD Umbria, il caso Fondi a Bianconi. Agli hotel il candidato gran parte dei soldi c'è per il Sisma Norcia. Lui ripete, questa è la destra, perché si va alle elezioni umbre, lui parla di falsità. Naturalmente, in quanto di falsità, non c'è niente di meglio che della verità, che con fanno rima anche, e non solo. In Umbria l'inciuccio giallo-rosso si schianta sui fondi del Sisma. Questo è il titolo stamattina sparato da questo giornalucolo. Però, per quanto riguarda la sinistra, io vado avanti, molto avanti, perché la mano destra deve sapere cosa fa anche la mano sinistra. Vado a una pagina culturali, eventi, le arti, le idee del Corriere. Il titolo di firma di Maurizio Porro è La storia sbandata. È una pièce teatrale. L'autore del testo, che lo declina secondo dove va, in Spagna una cosa, cambia un po' in Germania, cambia ancora in Italia. Perché se la prende soprattutto con la sinistra, gli chiedono? Perché per mostrarsi moderna la sinistra istituzionale socialdemocratica si è convertita decenni fa al pensiero del programma economico neoliberale e ha rinunciato alla sua missione storica, che era quella di preoccuparsi delle persone in difficoltà e degli sfruttati, che esistono ancora e sono numerosi, solo che la sinistra ha deciso di non vederli. E quindi la sinistra, dice l'autore del testo teatrale, non vede che la lotta di classe è più viva che mai. La vede anche Hollywood, perché con l'ultimo Oscar del cinema sul Joker ha parlato dell'odio di classe in quanto tale, come impulso vivificante rispetto al nemico. Ma qui, tornando invece a casa nostra, tutto diventa blob. Allora Zingaretti offre Di Maio il candidato in Calabria. È tutta tattica, anzi no, la tattica prevede una strategia. È tutto cabotaggio per arrivare a fine giornata, dopo elezioni, non di più. Vertice 2, al voto a novembre o a gennaio. Il segretario Dem deve liberarsi di Oliverio, il governatore inquisito. Quindi laddove sono inquisiti fanno l'accordo con i 5 Stelle, questa è un po' la geografia del PD, e i 5 Stelle laddove non esistono fanno l'accordo col PD, questo è. Non è entusiasmante e nemmeno foriero di grandi successi elettorali. Comunque le altre spine, il giallo-rosa alle prese anche con Toronto Toscana, l'incognita Bonaccini in Emilia Romagna. 10:10 primi, passiamo a questo punto all'argomento ambiente, dalle pagine del Sole 24 Ore, un articolo di Jacopo Giliberto ci dice che il mare ormai è come una discarica e il 77% dei rifiuti che ci sono plastica, immondizia nel Mar Ligure, nel Golfo di Napoli, attorno alle acque di Sicilia e pensate, i pescatori dell'Adriatico da Venezia a Corfù raccolgono nel giro di quest'anno, il 2018, 194 tonnellate di plastica. La foce dei fiumi rappresenta la maggiore quantità di rifiuti galleggianti e più di 1000 oggetti per chilometro quadrato, e vicino alla costa ci sono tra i 10 e i 600 oggetti per chilometro quadrato di mare. Più ci si allontana in mare aperto, più il numero di oggetti scende. Allarmante è la situazione dei fondali italiani. La regione Adriatico-Ionica, la media degli scarti ritrovati supera i 300 rifiuti ogni chilometro quadrato di fondo, dei quali l'86% è plastica e comunque in particolare usa e getta, e poi ci lamentiamo se i pesci che vengono ritrovati spiaggiati sulle nostre coste hanno al loro interno appunto plastica e anche di più. Sempre relativamente all'ambiente e alla scienza, diamo la notizia che in Svezia sono stati premiati tre scienziati per la chimica. Il Nobel per la chimica 2019 è stato assegnato a John Guttenog, Stanley Whittingham e Akira Yoshino per il loro contributo allo sviluppo della batteria agli ioni di litio. Questa batteria ha gettato le basi dell'elettronica wireless, come telefoni cellulari, laptop, fino ad arrivare ai pacemaker in medicina. Un premio con un occhio di riguardo alle energie sostenibili e di conseguenza al cambiamento climatico. Questa batteria infatti avvicina lo scenario di un mondo libero dai combustibili fossili, perché viene utilizzata nelle auto elettriche come stoccaggio di energia dalle fonti rinnovabili e quale energia solare ed eolica. Protagonista indiscusso del premio è il litio, un elemento primordiale sviluppatosi subito dopo il Big Bang. Gli scienziati lo scoprirono nel 1817 quando i chimici svedesi Arson e Barzelius lo depurarono da un campione minerale proveniente da una miniera dell'arcipelago di Stoccolma. E sempre più sofisticati sono gli impianti per la produzione dei composti, ma ci sono problemi perché a quanto pare non basterà per lo sviluppo. Sappiamo che vi sono miniere in Cile e Bolivia e vi sono miniere in Africa, ma quello che serve è l'utilizzo dell'economia circolare e quindi la rielaborazione del litio prodotto e utilizzato per batterie esauste. E ancora dall'ambiente a pagina 7, decreto clima ma con risorse modeste. Oggi il provvedimento in Consiglio dei Ministri, gli incentivi ai negozianti che vendono prodotti sfusi o alla spina. Alla fine il ministro dell'ambiente Sergio Costa ce l'ha fatta a portare al Consiglio dei Ministri di oggi il suo decreto clima. Costa è ovviamente contento, avremo, come dichiara, norme che contribuiranno a contrastare l'emergenza climatica. Ancora andiamo invece alla destra, che è rimasta sorpresa da questo movimento di ragazzi, quello di Greta Thunberg e del futuro, e allora prende le contromisure. Ce le racconta Leonardo Bianchi, le anti-Greta in vitro. Accanto agli insulti, la destra ha moltiplicato i tentativi di creare a tavolino un'alternativa alla Thunberg. Si tratta di coetanei che dicono cose politicamente scorrette, quindi con loro contro l'immigrazione. La prima è Isabella Nilsson, per esempio, che tiene comizi nei pressi del Palazzo del Potere a fronte di poche persone col gilet giallo, ma è un comizio all'interno di una manifestazione statica contro il Global Compact per la migrazione, convocata da gruppi di esponenti dell'estrema destra svedese. Poi c'è Katrina Januk, giornalista svedese con origini ceche, nota per aver diffuso bufale xenofobe sia in TV che sul suo sito Katrina Magazine. Due giorni dopo il presidio di Stoccolma, Januk riporta il discorso di Nilsson, quella di prima, e la paragona Giovanna d'Arco, definendola una giovane donna che combatte contro i tiranni che dominano il paese e che, nonostante le difficoltà, rifiuta di stare zitta. Un'altra martire nel Colosseo dei Leoni della sinistra. Ma lasciamo perdere questi tentativi praticamente fallimentari di creare l'anti-Greta e veniamo all'extraterrestre, che è l'inserto del giovedì del manifesto. Tutto il resto è soia, perché molti sono convinti che la soia sia alternativa. In realtà, dagli anni 90, complice Monsanto, la soia è la pianta estrogenica più coltivata nel mondo. Nel 2018 ne sono state prodotte 350 milioni di tonnellate su 120 milioni di ettari, un processo che divora terreni e biodiversità. Il Brasile, sì, sempre il Brasile di Bolsonaro, è epicentro della colonizzazione. L'80% della produzione è destinata ai mangimi per allevamenti intensivi, tra i maggiori responsabili del cambiamento climatico. Ma c'è anche un ma positivo, c'è anche la soia buona, quella naturale che ha un alto contenuto proteico e piace ai consumatori più attenti, e l'Italia è leader nel mondo, e questa è la buona notizia, direbbe la Gabanelli, però appunto in qualche modo le cattive notizie sono sovrastanti. Allora, equa solidale con un occhio al clima, sempre sfogliando questo inserto, la storia dei produttori del Fair Trade, attenti ai cambiamenti climatici, dai thailandesi a Greta Net, dai Green Net all'italiana Girolomoni. Nel frattempo in Italia c'è uno dei tanti problemi dell'agricoltura, sempre legato poi ai cambiamenti climatici. In qualche modo la cimice vorace si sta mangiando campi e frutteti. Questo è un problema che naturalmente impatta sull'alimento, impatta anche sull'economia, va da sé. Poi c'è il problema della bellezza, che non è un problema da sottovalutare, anzi, paesaggio bene comune dell'umanità. Isotta Cortesi, architetto paesaggista e agricoltrice, il paesaggio è il delicato spazio tutelare che mette in relazione l'essere umano, la sua opera e la natura, un'entità viva e mutevole nel tempo. Il paesaggista deve lavorare per riattivare i processi vitali e per costruire relazioni tra i viventi, perché è un problema appunto di relazioni, evidentemente. Poi Requiem per il drago di Comodo, che è sempre fatto un po' la fantasia perché è l'ultimo drago, un lucertolone in via di estinzione. Ciao drago. Ciao. Ma detto questo, quando diranno ciao uomo, diremo ah, dramma. Comunque, detto questo, veniamo invece all'apertura del Fatto Quotidiano. Parliamo dei nuovi stadi, ognuno vuole stare in palazzo dello sport, sembra che le Olimpiadi, più che ne ha più ne mette, perché è la gioia dei costruttori e degli appalti. Però c'è chi non ci sta. Lo segnala il Fatto Quotidiano, stadio a buffata, terreni pubblici e guadagni privati. Nuovo San Siro, affare da 1,2 miliardi. poi dice: ma dove troviamo i soldi per la finanziaria? 250.000 metri quadri destinati ad attività sportive diventano edificabili per Milan ed Inter. Protagonista Scaroni, la Renziana De Cesaris e Beppe Sala. Però Sala è ancora incerto. Operazione San Siro, dice appunto questa inchiesta del Fatto Quotidiano, la grande buffata, calcio e cemento, ristrutturare il vecchio Meazza si può, ma non è ciò che vogliono i misteriosi padroni di Milan e di Inter. Importa costruire, con la scusa dell'impianto, un nuovo quartiere con i soliti grattacieli. Scusi lei, chi c'è? Dove va? Perché? Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'I, lei del mi, oh bella mora. Da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì. E poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol diretto nella porta del mio cuore, ed ho capito che c'è solo lei per me, ed ho capito che c'è solo lei per me. Dieci e 19 minuti primi, e in tema di terreni pubblici e guadagni privati, caro Alfredo, ne sappiamo qualcosa bene anche a Bologna, in tema appunto di rifacimento dello stadio cittadino da parte del presidente del Bologna, il quale si è impegnato a fare questa ristrutturazione, ma in cambio ha chiesto l'utilizzo a scopo commerciale dei prati di Caprara. Però in cambio appunto... gli impianti sportivi del Caprara cedono in pace ai supermarket. Eh già, esatto. Ubi Maior. Il minor va al cesso. E ancora sulle cronache italiane, nel 1999 a 22 anni si ribellò ai ricatti del caporalato e fu ucciso. Processi mai conclusi e non è ancora stato trovato nessun colpevole. E appunto questo reportage ce lo propone La Stampa, parlando appunto di Iso, un ragazzo albanese che morì nel 1999 e il processo si è concluso senza nessun colpevole. Ancora una notizia che riguarda il mondo del lavoro, la apprendiamo dalle pagine del Carlino, la Whirlpool, cessione sospesa, il segnale però non basta al governo e ai sindacati, il governo rispetti gli accordi presi. L'offerta è, la società si è detta favorevole a rivedere la vendita dello stabilimento di Napoli fino al 31 ottobre. I dubbi sono che comunque Conte chiede chiarezza e vuole mantenere il presidio campano. A rischio però sono i 430 lavoratori. Oh, notizia grande come una casa e descritta davvero come un francobollo quando c'è, è quella di una sentenza proprio comminata a Bologna sui fatti di Bibbiano. Sappiamo che Bibbiano è un cavallo dell'estrema destra, per dire i comunisti, non essendo più tanto rossi ma un po' più rosa, non li mangiano più i bambini ma li mandano in affido. Beh, oggi leggiamo da pochi fogli, leggo da Repubblica Online: tutto regolare, provvedimenti legittimi. È la verità dei giudici del Tribunale dei Minori di Bologna sul cosiddetto caso Bibbiano. Su 100 fascicoli esaminati non c'è stata riscontrata nessuna anomalia, dice la sentenza, non c'è ombra di sistema, non c'è neanche l'ombra. I numeri dicono che su un centinaio di segnalazioni dei servizi di Bibbiano, con i quali si prospettava l'allontanamento dei bambini dalle famiglie, in 85 casi il tribunale ha deciso diversamente, ossia di lasciare i ragazzini tra le mura domestiche. Solo nei casi più controversi, una trentina di giudici hanno deciso per l'affido esplorativo, una misura che non prevede l'allontanamento della famiglia e chiede ai servizi sociali di sostenere i genitori e i figli per superare eventuali momenti difficili. Quindi su 100 casi, solo 15 casi i giudici hanno accolto la richiesta di allontanamento, non prima tuttavia di aver incaricato i propri consulenti di fare un compito con le verifiche. La bontà delle decisioni adottate da questo tribunale dei minori è dimostrata dal fatto che, leggiamo, le cifre sono significative, in 8 casi i genitori non hanno fatto ricorso in appello, accettando la decisione, mentre i ricorsi contro la sentenza, che sono stati 7, cioè gli altri, sono stati tutti respinti dalla sezione dei minori della Corte d'Appello. In altri termini, per le decisioni contestate c'è stato un secondo tribunale che ha dato ragione a Via del Pratello. Quindi, credo che giustizia, solo che questa notizia non viene data, è mandata con titoli di apertura a Bibbiano, i comunisti e il sindaco a su e giù, e questa notizia invece non viene data con altrettanta decisione. Parlavi di razzismo, succede a Soumahoro a Roma, ricordiamo dirigente sindacale dell'USB impegnato alla lotta per i braccianti, figura conosciuta, discriminato su un taxi: tu qui non sali perché sei un negro. Questo gli è successo a Roma, la sfortuna per il tassista è un negro conosciuto e quindi è andato sul giornale, altrimenti. Ma girando pagina poi, i flussi e i nodi, parliamo del razzismo più istituzionale, Arion, Marie e gli altri immigrati, quelli che assumono gli italiani. In 1600 ce l'hanno fatta, quindi un grande contributo all'economia nostrana, ma dal 2011 gli ingressi legali per lavoro sono praticamente chiusi. Questa è la regolazione dei flussi. Sì, entriamo a bomba invece nelle notizie locali, dalle pagine locali di Repubblica. La prima pagina è dedicata all'ambiente, alla città. Ci sono 3.000 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati per strada, tra mobili e lavatrici e persino due vasche di idromassaggio. Dilaga l'inciviltà, ma aumenta anche la quantità di pattume portato nelle stazioni ecologiche. Ancora Ubertini, il rettore dell'università che si avvia alle elezioni, spera che la successione riguardi una donna. Un'altra notizia simpatica, a pagina 11 della cronaca locale di Repubblica, ci viene da la giornalista Leonora Capelli, che ci parla di un parco, un'area verde in Viale Lenin, dedicata alle vittime dell'Uno Bianca, che diventa un percorso che unino le scelte delle donne. Qual è il femminile in giardino? E ci sono, anziché il percorso salute, una serie di indicazioni, almeno una quindicina, sulle condizioni femminili. Si parla di partecipazione alla lotta contro l'indifferenza, alla parità salutare per ottenere lo stipendio come quello degli uomini, il bivio per smettere di trascinare una relazione ormai finita, e questo è un parco che è appena stato creato. Il Corriere di Bologna ci parla di cinema del mondo o dal mondo, è la terra e tutti i film festival, da oggi oltre 40 film tra ambiente e crisi. Noi abbiamo raggiunto il direttore artistico Jonathan Ferramola, che ci ha un po' descritto il senso generale della kermesse di quest'anno. Con questo io e Pelle vi salutiamo, ciao e sentirci. Buon ascolto. Un succo, diciamo, un piccolo succo in 4 giorni di tutto quello che un po' si muove nell'attualità geopolitica mondiale. Non vuole essere una cosa che dice anche meno, no, però nel nostro piccolo cerchiamo veramente di condensare, grazie al lavoro di decine e decine, direi centinaia, perché poi noi 36 sono i film che selezioniamo su 500 che riceviamo da 25 paesi del mondo, grazie al lavoro di queste persone che sono spesso reporter, giovani o meno giovani registi che investono del proprio, alcuni hanno le distribuzioni e le produzioni organizzate, altri sono dei veri e propri freelance che si lanciano un po' in questa passione, no? Di voler raccontare il cinema attraverso il cinema irreale, il cinema del reale, appunto, la realtà nei suoi occhi nudi e crudi, come si presenta in tanti angoli del pianeta. E quindi grazie alle loro immagini, questi 4 giorni, 5, perché stasera faremo appunto alla BA alle 19:30 un'anteprima, che è Isis Tomorrow, The Last Souls of Mosul, di Francesca Mannocchi, faremo un giro del mondo, uno spaccato dei dibattiti più d'attualità. Parleremo di ambiente e di lotte per il clima, parleremo di diritti delle popolazioni, parleremo di Venezuela, parleremo di rifiuti, plastiche che stanno inquinando i mari, parleremo di Mosul ancora e quindi di Siria, di ISIS, parleremo di Gaza e apriremo una doverosa finestra sulla Palestina, parleremo di Libano, di diritti delle donne, faremo un ping pong tra la Tunisia e la Sicilia, cercheremo di parlare tanto anche di Mediterraneo, di Sud America, di diritti umani, ecco, questo è un po' il focus, la guida, l'elemento guida che ci lancia in questa 13ª edizione. Per questa edizione ci sono anche alcune novità, ho visto che c'è una sezione di documentari non ancora ultimati in lavorazione. Sì, mi sono un po' partecipando a qualche questi market, i pitch, no? Che vengono fatti un po' in altri festival, che sono sempre un po' per addetti ai lavori, cioè le produzioni, quelle in essere, quelle ancora non terminate, progetti in sviluppo, si presentano a distributori e raccontano il loro progetto per la possibilità di trovare poi una distribuzione futura, un broadcaster che li proietti, eccetera. Mi è venuta questa idea del making of come di un pitch, diciamo, come di un racconto del progetto in sviluppo, ma al pubblico, quindi non tanto ai distributori e quindi agli intermediari, ma proprio all'utilizzatore finale, ovvero al pubblico. Quindi ci saranno quattro storie, dalla Sayonara Film di Bologna, passando per l'SMK, sempre bolognese, che ci racconterà storie da Palestina al confine occidentale, lui da Lif, ci racconterà il suo progetto Milky Way, Paola Manno con l'abbraccio, insomma quattro spaccati, quattro storie di documentari che magari nei prossimi mesi, anni, vedremo poi nelle sale, speriamo, nei festival, a terra di tutti. Quindi ce lo racconteranno. Altra sponda di racconto sarà invece dal livello fotografico. Saranno con lo screening off quattro fotografi che racconteranno in sala e vedremo le loro fotografie bellissime in grande schermo, quattro reportage fotografici da quattro altrettanti angoli del pianeta. In un modo diverso di fruire della sala, che non è solo quella del documentario, non è solo quella del film, ma è anche delle gli utilizzi, diciamo, diversi, no? A proposito di utilizzi diversi, quest'anno ci sarà anche un gioco di ruolo. Sì, abbiamo provato a mettere insieme con i ragazzi di DAS, questo spazio bellissimo in Via del Porto, che sta diventando, insomma, un altro elemento di arricchimento questa città, un altro spazio rigenerato, strappato all'oblio e dedicato, insomma, alla cultura, ad AS, che ha degli spazi enormi, molto grandi, prestavano molto alla possibilità di un'estensione di persone che facessero delle cose, potessero muovere nello spazio, insieme a Chaos League, questa associazione di artisti, di performer che abbiamo immaginato, concepito assieme, poi loro la realizzano naturalmente, noi l'abbiamo, diciamo, coprodotta, questo The Border, un role play, un gioco di ruolo che la gente appunto può sperimentare iscrivendosi, c'è il nostro evento Facebook, c'è la pagina di Chaos League, The Border sperimenta proprio la realtà distopica di una frontiera, quindi l'attraversamento della frontiera, il controllo dei documenti, lo straniamento di un passaggio che è veramente forte, no? In quel momento immaginarsi di essere controllato, guidato, sei nelle mani di qualcun altro che è in mano il tuo destino, che è la realtà che vivono centinaia, decine, centinaia e migliaia di migranti, di rifugiati ogni giorno in tanti angoli del pianeta. Ebbene, lo proveremo a mettere in scena, lo proveranno a mettere in scena, e nel ruolo appunto dei borders, di quelli che attraversano i confini, ci saranno le persone appunto che partecipano a questo gioco. Quindi è un'esperienza di gioco di ruolo che invitiamo a sperimentare, perché deve essere molto interessante. Noi stiamo invitando anche delle autorità, stiamo invitando politici che insomma a cui a noi piacerebbe che provassero questa esperienza sulla propria pelle, da poterla poi anche vivere poi nelle politiche che mettono in atto.